Roma Trastevere, 7 dicembre 1966. Caro Eleuterio, il tavolo che mi ha visto scrivere i temi delle elementari, poi quelli delle medie, oggi mi vede scrivere a te lettere malinconiche. La mia malinconia è grande, grandissima. Immagina la malinconia di uno spettacolo presentato contemporaneamente da Enza Sampò, Daniele Piombi e... Beh, la mia è di più. Vicino a me il Picci, che fa le fusa, il gatto. E penso che in fondo il gatto non è altro che la controfigura del coniglio, sempre pronta al si gira gridato dal cuoco sul pericoloso set del girarrosto. E a proposito di gatti, tu sei un cretino. Non si litiga per una brocca d'acqua minerale che si versa. Sempre tua. Roma Parioli, 8 dicembre 1966. Inconfondibile, sempre mia. Sono felice che il tavolo che ti ha visto scrivere i temi di scuola oggi ti veda scrivere lettere a me. Il che significa che tu sei lì e io sono qui. Il che significa anche che tu sei con tua madre. E ben ti sta. Una brocca di acqua minerale che si rovescia non è sempre motivo di lite. Lo diventa quando l'effervescente liquido si versa improvvisamente nella mia metà di letto matrimoniale. Ciao. Ho scritto. La donna è l'angelo del focolare, dicono. Ma allora tuo padre che aspetta a mandare una lettera di scusa agli angeli? Eleuterio. Roma Trastevere, 9 dicembre 1966. Caro Eleuterio, micio, non in senso affettuoso, micio, come dice il macellaio romano quando deve far avvicinare il gatto per prenderlo a calci. Mia madre al telefono non fa che ripetere la parola verme. O parla di te o sta protestando con il fruttivendolo per le mele di ieri. Chissà. Il cielo azzurro è striato di nuvole bianche. E io penso che un cielo così non è che una grande bandiera laziale sventolata per dispetto sui romanisti di Trastevere. La caraffa d'acqua si è rovesciata nella tua metà di letto matrimoniale, dato che nell'altra metà di letto c'ero io che la rovesciavo. Sempre tua. Roma Parioli, 10 dicembre 1966. Cara sempre mia, la tua assenza incomincia a darmi noia. Non quanta me ne può dare la tua presenza, ma insomma un bel po'. Incontro tutte le mattine il ragioniere che abita di fronte a noi. Ho notato che mi guarda con una certa aria di vittoria. Lui ha la moglie vicino, io no. Quindi tra i due, lui è l'eroe, io l'imboscato. Torna. Anche perché qui succedono cose strane. Sulla parete della stanza da letto ci sono un sacco di zanzare sotto vetro. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha risolto il problema delle zanzare. Dice che è meglio spruzzargli addosso insetticida piuttosto che lacca per i capelli. Eleuterio. Roma Parioli, 10 dicembre 1966. Caro Eleuterio, micione, sono qui a togliere le zanzare dalla parete della stanza da letto. Il guaio è che insieme alle zanzare vengono via i pezzetti di carta da parati. Questa lacca per capelli è veramente ottima. Le zanzare. Non solo che i motoscooters nel traffico degli insetti. Tra poco rientrerai e sarà come se io non me ne fossi mai andata. Anche se il motivo della nostra ultima lite l'ho chiarissimo nella mente. Eravamo andati a letto da poco e tu avevi in mano un libro giallo. Che fai, leggi? Sì. Se non leggo un po' non riesco a prendere sonno, lo sai. Leggi, leggi, leggi pure. Io non leggo, io sonno. Buonanotte. Buonanotte. Leggi molto? No, solo qualche minuto. Oh, per me puoi leggere anche tutta la notte. Io tanto dormo. Ecco, brava, dormi. Buonanotte. Notte. Chissà perché la gente ama leggere a letto. Tu lo sai, Eleuterio? No, non lo so. Peccato. Speravo lo sapessi. Non importa, buonanotte. Buonanotte. Mia madre dice che a leggere a letto ci si rovina la vista. Non sono d'accordo. È guardando tua madre che ci si rovina la vista. Eleuterio, ti prego. Buonanotte. Buonanotte. Ho dimenticato la caraffa dell'acqua di là. Ti dispiace, Eleuterio, andare a prendere? Sì, mi dispiace moltissimo, ma ci vado. Così mi allontano da te per un minuto. E non commetto spropositi. Non sei cortese nemmeno un po', Eleuterio. No, non lo sono. E non lo sarò mai finché non mi lascerai dormire in pace. Eccoti l'acqua. Quante storie per un libro giallo. Fosse una cosa seria lo capirei. I gialli sono libri serissimi, se non altro per quei suggerimenti che danno su come sfuggire alla giustizia dopo aver assassinato suocera e moglie. Al Capone! Posso leggere in pace? Leggi, leggi, tanto io sonno. Buonanotte. Oh. Ho detto buonanotte. Buonanotte! Dice mia madre che... Non lo voglio sapere. Tua madre, per fare una cosa giusta, dovrebbe trovarsi al posto della signora di cui si parla a pagina 66 di questo libro, sul tappeto del soggiorno, in veste di puntaspilli per pugnali. Chiaro? Se dice ancora una cosa contro mia madre, io reagisco. Buonanotte. Buonanotte. Perché hai spento la luce? Non leggi più? No, ho sonno. Dormo. E tu perché accendi? Non dormi? Non ho più sonno. Visto che tu non leggi più... Dammi quel libro, così lo finisco di leggere io. Piuttosto me lo mangio. Ha ragione mia madre quando dice che sei un selvaggio. Dammi il libro. No, e spegni la luce. Non spengo, tu dammi il libro. Spegni o ti do una dimostrazione di come va recitata la seconda scena del quinto atto dell'Otello. Fermo, Eleuterio, buono. Eleuterio, io. Ehi. Io torno da mia madre. Ma quando rientrerai... Farò finta di niente. Ciao. Ciao. Dice mia madre se hai da prestarle un libro giallo perché lei la sera